chi ha paura oggi del suo ruolo, del ruolo di Calì, del ruolo del PM Cescon, del ruolo di Giuliano? Perché questo interesse a mettere un tappo definitivo su questa vicenda, uccidendo gli uomini dello Stato che hanno indagato su quella vicenda? Guardi, innanzitutto c'è da dire che si tratta di un pubblico ministero e di funzionari di polizia molto determinati, e quindi sono soggetti che sicuramente hanno dato molto fastidio a quelli che rimangono ormai della mano del Brent, fenomeno che di per sé è stato proprio annientato a seguito della cattura di Felice Meniere, e quindi già dopo il 1990. Si tratta di soggetti sanguinari, rapinatori, rinviati al giudizio in fase di giudizio proprio in questi giorni, anche per una serie di assalti a furgoni blindati e con il conseguente omicidio di alcune guardie. Quindi gente che coltiva il gusto della vendetta, possiamo dire. Ma il gusto della vendetta, nel senso che questi soggetti erano convinti di farla franca ancora una volta per la lentezza dei processi. Invece questo non è stato, grazie all'efficacia delle indagini, innanzitutto condotte dalla Polizia di Stato, e alla determinazione di un pubblico ministero, la dottoressa Renza Cescon, che è riuscito in poco tempo a raccogliere elementi, a rinviarli a giudizio e ad ottenere il dibattimento nei confronti di questi soggetti. Ecco, rispetto a quella che è stata la sua esperienza negli anni in cui dall'87 al 96 è stato capo della mobile di Padova, oggi che cos'è la criminalità in Veneto? È ancora organizzata o no? Direi assolutamente di no, nel senso che non è assolutamente più un fenomeno criminale organizzato, e quindi come tale non ha assolutamente più il controllo del territorio come avveniva qualche anno fa. Si tratta però, per quanto riguarda i soggetti che operano tuttora, di soggetti molto pericolosi, dedite a una serie di fatti molto gravi, però non per questo fanno parte di un nucleo che possa controllare il territorio e che possa condizionare sia le vittime sia le forze dell'ordine. Ecco, chi gestisce e governa per esempio il traffico delle sostanze stupefacenti nel Veneto? Per esempio, Verona che tipo di città è da questo punto di vista? Ma guardi, che Verona sia uno dei punti nevralgici per quanto riguarda il traffico di droga, e questo già da anni, ancora tutt'oggi, per Padova si può dire la stessa cosa. Sono cambiati purtroppo coloro che tirano le file, che reggono le file di questo tipo di traffici, eccetera. Mentre per quanto riguarda la mala del Brente a fine anni 80, inizio anni 90, aveva raggiunto il monopolio sia dell'importazione sia del traffico che dello spaccio di sostanze stupefacenti, dopo la disarticolazione della mala del Brenta si sono inserite ovviamente organizzazioni criminali che operano a livello transnazionale, che gestiscono rete di traffici, però parliamo di soggetti extracomunitari, quindi sia albanesi, sia nigeriani, sia nordafricani, per quanto riguarda proprio l'ultima catena proprio di spaccio.